Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Immaginate quando capita di vedere accanto due persone totalmente all'opposto. Due donne che, secondo me, questa è la mia intuizione, poi vedremo nella applicazione del passaggio dell'intervista sul treno se sarà confermata. Almeno l'apparenza mi sembrano donne che vivono in universi totalmente distanti. Parliamo della prima. La prima probabilmente mi sta già guardando da un po' di tempo e ha voglia di parlare. Mi sembra una donna che vive in una sua dimensione onirica, distante, una donna piacente, anzi una donna con dei tratti che potrei dire di ostentazione seduttiva. È molto intenta a digitare sul suo smartphone, ma appena alza gli occhi comincia a parlare. Tu per cosa avevi studiato nella vita? Cosa volevi fare? Io ho fatto il linguistico, ok, e poi sono entrata in Fininvest. Quindi avevi un lavoro vero? Sì, sì, sono entrata in direzione Fininvest lì a Segrate, poi a Colonia e poi a Milano 2. E per quanto tempo hai lavorato lì? Fino al 2001. Poi il lavoro è finito lì, diciamo, si è interrotto? Sì, poi per delle circostanze, insomma, così ho pensato di lasciare, quindi sono dimessa io. Tu, diciamo, cos'è? Un amministrativo eri? No, io praticamente controllavo i rischi a RC auto e infortuni e malattie. Ah, beh, comunque c'avevi un incarico, diciamo, di concetto specifico. Sì, ho un incarico di concetto, quindi valutavo i rischi. E quindi tu ti sei rimessa sul mercato del lavoro, quindi? Certo, ovviamente il mio curriculum è, diciamo, improntato verso un lavoro. Io però ho specificato che negli ultimi 2 anni circa, in attesa ovviamente di trovare un lavoro inerente alle mie vecchie mansioni, avevo curato una persona anziana. E questo lavoro mi è riuscito bene. Quindi tu ti eri proposto, oltre che per il lavoro per cui avevi un curriculum consolidato, cioè, volendo in subordine posso anche occuparmi di anziani visto che ho esperienza. Sì, perché visto che mi era riuscita bene la cosa, anche il figlio di questa persona era rimasto, che era medico, mi era rimasto soddisfatto. Cioè tu ti sei scoperta che avevi questa attitudine di occuparti di persone anziane? Sì, devo dire, non è che era proprio quello che voglio fare nella vita. Beh, chiaro, però, è logico. Quando uno ha bisogno di lavorare, nel frattempo che magari non trovo, anche perché normalmente sono sempre persone abbastanza anziane, io li becco tutti anziani, molto anziani, tu nel frattempo cerchi, se ti arriva la proposta vai. Diciamo che tu ti sei adattata di buon grado a fare la badante, che è un lavoro abbastanza usurante, che richiede un grande impegno. Vabbè, avevo il suo figlio medico in casa, però mi sono ritrovato a fare anche l'infermiera, per dire, anche se non ho queste. E per quanto tempo l'hai assistito questo anziano? Una signora 2 anni, un anno e mezzo, 2 anni. Va bene, tu questo curriculum dove l'avevi messo te? Cioè come facevi circolare? Su LinkedIn. Ah, su LinkedIn, diciamo. Non è che l'ho messo su un qualsiasi posto, cioè, LinkedIn tu lo conosci. È il social network dove la gente si scambia comunque le offerte di lavoro, si seguono diciamo, è un social network che permette alle persone di proporsi e cercare occasioni di lavoro. Certo Gianluca, io ho pensato che quello fosse il posto migliore dove appunto evitare di trovare i perditempo, no? Ok? Cioè, il perdere tempo c'è sempre, però pensavo che fosse, anzi, così ancora loro si ritengono, questi qua di LinkedIn, quello dove ci sono i professionisti, dove ci sono, insomma, personaggi. Io ancora devo conoscere una persona che trova lavoro su LinkedIn, dico sincera verità, però diciamo perlomeno devo ancora conoscere una persona che mi dice ho trovato lavoro grazie a LinkedIn. Io ne conosco 3 o 4 trovato mansioni come manager in grossa azienda ad alto livello, naturalmente, ad alto livello. Però tu devi pensare adesso, non per tirarmela, comunque io ero arrivata ad essere un capo ufficio in una direzione, quindi un capo ufficio direzionale è già un bel... Quindi eri, diciamo, un quadro praticamente, se vogliamo dire. Quello sarei entrata nei quadri. Ah, ecco, sì. Cioè, c'è un buon livello, diciamo, un buon livello di carriera amministrativa, diciamo, ecco. Sì, sì. E quindi niente, io ho messo questo mio curriculum, ho cercato il mio curriculum, quello europeo, che prevede per forza la foto. E perché dici della foto? Perché dalla foto risultavi particolarmente avvenente, questo era... Ma guarda, è la stessa foto che io ho sul mio profilo WhatsApp, che è una foto, cioè non è una foto particolarmente, cioè che può far pensare che io sto cercando altro, insomma. Cioè, una foto. Vabbè, la tua faccia, non è che ti puoi per forza cambiare la faccia. Appunto, la faccia, perché non è che si vede il corpo, si vede qualcosa, si vede la faccia. Si vede che è una donna di avvenenza, ma questo è un problema ineludibile. Questo sei, e quindi... Quindi, insomma, metto questa faccia qua e metto questa foto, anche perché la foto è obbligatoria. Certo, certo, chiaro. Anche altri dati sono obbligatori. La cosa assurda, secondo me, è che ti dà la possibilità di scegliere, alla fine del, quando hai caricato il curriculum, ti dà la possibilità di nascondere il tuo indirizzo email, ma non nascondere il numero di cellulare. Cioè, che è una cosa assurda, dovrebbe essere il contrario. Ma no? Sei sicura? Perché io nel mio profilo non c'è il mio cellulare, nessuno non è scritto. Invece, se tu adesso ti vai a scrivere dentro quel coso lì e carichi il tuo coso, ti dice che il campo del numero di telefono è obbligatorio. Va bene. Comunque, strano, però questo è molto singolare, perché è... No, è un po' singolare. Però probabilmente c'è gente che usa 2 cellulari e ne tiene uno per lavoro, infatti, come succede? Uno per lavoro, uno per cosa, io uso un solo cellulare con un solo numero, quindi era quello il numero da chiamare, quello tuo, no? Personale, certo. Il vedo la poussière à gogo e dans mes bottes des cailloux au ciel des aigles et des squelettes. Et des cow-boys un peu partout. Il y avait des cactus à l'appel. Au loin le train sifflait la Seine. Était flatté par un soleil rouge dans le rose du ciel. Sables et cailloux s'entremêlent, cactus et collines à la chaîne, comme dans un western de voyous. On entend siffler les duels à coups de Colt, de revolver, et ça fait bang bang dans la plaine. Un coup qui part, un corps s'écroule. Le soleil, la nuit autour des feux qui craquent, le jour les cheveux dans les airs, mon aventure est solitaire, et mon cœur sourit à qui vient, moi je sais qui gagne ou qui perd, au jeu du Colt, du revolver. informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio! Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro! Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio! Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB! Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra! Sì, però svegliati, Dibidi dobidi DAB! Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Allora, i più singolari sono stati uno che mi ha chiamato dicendo che aveva un'agenzia immobiliare, dandomi solo il nome senza il cognome ovviamente, dove dava per scontato che io, avendo lavorato nel periodo dove Berlusconi è poi entrato in politica e ha avuto quei problemi con le sue vicende personali e pubbliche. Sì, tutte queste vicende personali e pubbliche che sono state messe, insomma, di cui si è parlato molto, e mi ha catalogato tra le olgettine di quei tempi lì. Adesso, fra le migliaia di persone che lavorano a Mediaset, sì, assurdo, mi sembra. No? Vabbè, comunque la gente sai com'è fatta. Vabbè, lui ha calcolato il periodo. E ho detto che questa qua lavorava per Berlusconi quando ancora lui non era. E sì, poi vabbè, ma nessuna politica, delle cosiddette olgettine era impiegata negli uffici, quindi era un altro giro. Comunque sì, era un altro giro. Vabbè, detto vabbè, questo. Giro non giro, questo qua mi ha fatto capire che era un'olgettina, secondo vabbè. Lui. E quindi, vabbè, proposta. Poi quella più singolare di uno che mi ha chiamato proprio tranquillamente, non mi ha detto il cognome, mi ha detto mi chiamo Mario, mi ha chiesto se avevo forza nelle braccia, a cui ho detto guardi, ho forza nelle braccia per far cosa, cioè nel senso sì, ce l'ho forza. Ma forse pensavi per fare la badante, per girare un anziano allettato? Sì, perché ti chiedono anche quello, no? Beh, giustamente. Chiedono, forza, perché se tu hai una persona anziana che pesa 70 kg, devi cambiarlo, c'ha le piaghe, queste cose che appunto, succedono. Le piaghe, di girare, devi avere forza nelle braccia, no? E io gli ho detto sì. E lui mi ha detto: senti, ma tu mi resti a prendere a pugni? I pugni, dei pugni me li daresti? Ma cercava uno che la prendesse a pugni? Sì, cercava una che poi io mi sono messa a ridere, gli ho detto: ma quanto mi dai a pugno? Nel senso, e che ha detto? Cioè, cosa va a pugno, a mensile, a settimana? Cioè, capito? E lui seriamente ti ha risposto: oh, ma seriamente? Quando io gli ho detto: ma scusa, ma cosa. No, no, vabbè, ma io ho detto, ma questa è una perversione, cioè nel senso. Cioè lui volesse preso a pugni in faccia, cioè. Altro, sì, voleva essere. Cioè, masochista a livelli lesionistici, autolesionistici, perché un pugno è un pugno, non è uno schiaffetto. Ma io glielo ho anche detto, lo sai come si chiama questa cosa qua? Cioè, un nome ben preciso questa cosa che mi stai chiedendo. E mi ha detto, ma adesso tu pensala come vuoi, io sto cercando una donna che lo prenda che mi piglia a pugni. Sì, perché penso che magari una donna gli fa meno male, quindi evidentemente. Perché se un uomo gli spacca la faccia al primo pugno. Ecco. No, vabbè, ma Gianluca, io penso che lì lui non stesse cercando un uomo perché magari. No, ma è chiaro, è una forma di sottomissione. Una donna che lo menasse, punto, cioè, sì. Capito? Vabbè, c'ha chi gli dà gusto, che te devo dire, ognuno ha i suoi gusti. Però, scusa, ma di tutto il tuo curriculum, di tutta la tua esperienza professionale, compresa anche quella, diciamo, di occuparti di persone anziane, che è un lavoro dignitoso, non è quello per cui hai studiato, però eri disposta a farlo. Questo pensa soltanto per la foto che ha visto, che tu eri quella che poteva prenderlo a pugni in faccia. Guarda, l'unica telefonata o un messaggio di WhatsApp, perché ovviamente questi, avendo il numero di cellulare, ti mandano anche WhatsApp. Ok. Ma sai, questa cosa mi lascia perplesso. Io voglio verificare. Mi sembra tanto strano, perché se così fosse sarebbe una trappola per chiunque. Ma ti rendi conto lasciare il numero aperto? Ma mi sembra tanto strano. Ma hai guardato bene nelle policy? Perché mi sembra tanto strano che uno sia costretto a lasciare allora, il telefono. Se tu metti su LinkedIn il tuo... Allora, il curriculum europeo prevede... Adesso se tu vai... Ah, ma io nel mio curriculum non ce l'ho messo mica il mio telefono, col piffero. No, capito. Ci metti un'email. Il curriculum europeo prevede che qualcuno ti possa contattare. E metti l'email, non sei obbligato a mettere un telefono. Ma scherzo, soprattutto se lo rendi pubblico. Sei tu che hai messo il telefono nel tuo curriculum, perché mi sembra strano che LinkedIn il curriculum non chiede il telefono. Prevede che ci sia il numero di cellulare o comunque un recapito di... E tu non ce lo mettere, non succede niente, tanto è un PDF, ci puoi mettere quello che vuoi. Mi sembra strano che se tu metti... Ma le caratteristiche del curriculum del PDF, ho capito, ma nessuno del curriculum ma nessuno ti spara se non riempi quel campo. Quelle, cioè... ma se tu non riempi quel campo, visto che tu lo fai girare, se io lo mando il mio curriculum a un'azienda ci posso mettere il telefono, ma se lo metto in rete non ci metto il telefono. Nessuno ti può obbligare di mettere il tuo telefono a disposizione di tutti, credimi, è così. Ma quando io praticamente ho allegato il PDF, il mio PDF aveva dentro il numero di cellulare. E tu devi fartene un altro senza cellulare, mettere quello in rete, capito? Ma LinkedIn ti richiede il numero di cellulare, non ti fa andare avanti. Ma io ti giuro, io ci sto e non ho il mio cellulare e nessuno ce l'ha. Vabbè, comunque sì, adesso... Poi Gianluca, non voglio insistere perché può darsi che magari io mi sia sbagliato. Penso. Comunque, al di là di questo, sì, che uno può fare un errore... Io ti considero a questo punto di cambiare cellulare. Ma hai avuto anche altro tipo di offerte, diciamo, non canoniche, non mirate sì, veramente... Sì, tramite WhatsApp, tipo ancora cosa? Stamattina mi ha scritto un avvocato di Trieste... che non mi ha voluto dire il nome ovviamente, e mi ha detto che aveva qua a Milano sua zia da curare. Va bene. Mi aveva proposto uno stipendio giusto, dove addirittura non avevo neanche l'obbligo del pernotto, la convivenza, quindi avrei fatto anche dei lavori tipo l'ufficio, tipo alle 9, all'1 e beh, poi alle 6, una discreta. No? Comunque tutti hanno scelto la parte tutto del qua, dopo due giorni mi ha chiamato. Sì. Per dirmi che intanto si è preoccupato se... Cioè, perché io gli avevo detto che avevo un compagno, no? Perché lui mi aveva chiesto come, insomma, se io ero sposata, se avevo figli, cose che ti chiedo, perché se uno deve fare una badante, certo, deve certo sapere se uno ha un figlio, se può essere un problema, no? Sì, può ma giustamente. Può avere una certo famiglia. Io ho detto, guarda, io sono libera di impegni, mio figlio è autonomo, ho un compagno, non sono più sposata, quindi voglio dire, informazioni che normalmente ti chiedono, no? Quindi questo qua ha aspettato, dicendo che non avrebbe fatto chiamare anche dalla sorella, perché ovviamente doveva consultarsi lei. La telefonata non è arrivata dalla sorella, è arrivata una telefonata sua, dove mi diceva che ok, la zia va bene a quelle condizioni, ma che lui quando veniva a Milano da Trieste, io mi avrei praticamente dato un extra per andare con lui fuori a cena, per accompagnarlo. E io gli ho detto, scusi, ma c'è la volontà di avere poi dei rapporti sessuali? Io ho detto proprio, perché ho detto, se lei mi chiede qualcosa in più per venire fuori a cena con lei a 100 euro, io le racconto la mia vita, lei mi racconta la sua, mi paga 100 euro di cena. Il problema sussiste se lei mi sta chiedendo delle altre prestazioni che sono sessuali. No, ma io non intendevo dire questo, però neanche lo escludo. Ma la gente, scusa, ma perché non si... Se cerchi escort su un qualsiasi motore di ricerca, ne trovi miliardi. Ne trovi miliardi. È il loro è lavoro. Questo. Perché ti è andata la badante della zia. È questo che non riesco a capire. No, manco io lo capisco. Perché la gente sogna sempre che le persone ci vadano per fascino, per avventura. No, questi personaggi che non voglio neanche finire, perché io non sono... una persona che sa che nella vita c'è gente, ma sì, vabbè, sono che fatti ama loro farsi menare, andare con famiglia, figli, vuole comunque divertirsi, quindi il mondo è così, la gente è fatta così, no? Quelli che hanno delle, tipo quello dei pugni, no? Avrebbe potuto tranquillamente cercare una persona, perché è pieno di gente che fa queste cose, no? Cioè, di donne che vanno in case a mettersi vestiti di pelle con la frusta, cioè ne esistono di più nel mondo, no? I can tell Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Probabilmente è cambiato un po', cioè nel senso adesso voglio un è quella che non l'ha mai fatto, capito? Ah beh, come quelli che cercano il porno amatoriale, vogliono le non professioniste. Le non professioniste, il porno. A parte questa reale, gente, non so, una volta sì. Questo compito lo svolgevano le mogli, era le mogli a menare i mariti. Si è trasformato un po' il. Cioè, diciamo, se trovasse una moglie col mattarello, di quelle proprio cattive che menano, si sposassero quella e si piglia tutte le botte che vogliono. Cioè, è da commedia dell'arte, capito? Trovasse una moglie stronza e si facessero menare. Secondo me manco la devono pagare. No, ma infatti sento doverla pagare, fai incazzare tua moglie, ti fai tirare il cartello in faccia e via, no? Ma vedete, no, voi vogliono tutto, è un altro rituale, evidentemente non lo capiamo. No, quindi adesso stai messa così, adesso tu stai così con sto telefono che ti chiama e 10 volte su 10 è gente che fa richieste strane. Solo pare adesso. Però ovviamente anche lì non posso metterci la mano sul fuoco. Una persona mi ha contattato per un ufficio. Sarebbe ora, un lavoro normale finalmente. Questo mi ha dato il nome e il cognome, l'azienda, tutto quanto, quindi presumo non ci siano poi richieste strane dietro, nel senso che guarda, io se fossi in te verificherei meglio questa storia del telefono, però mi sembra tanto strana sinceramente che tu sia obbligata ad avere il tuo telefono. Sì, comunque adesso al di là di questo numero di telefono che può essere tranquillamente rimosso e quant'altro, io lo cambierei, non comunque. È normale. Sì, ma se tu hai messo il tuo curriculum europeo col telefono visibile, ho capito che mi vuoi far capire che ho fatto una cazzata. Sì, penso di sì, onestamente. Io ho capito che mi stai dicendo questo, però io volevo solamente, allora diciamo così, volevo avvisare le persone che si mettono là dentro di non mettere, se possono, non mettere numeri di cellulare, perché poi arrivano questi personaggi qua, ma ne arrivano tanti, con foto normalissime, con curriculum dove tu dai la disponibilità per mansioni e lavori normalissimi. E quindi ecco, diciamo così, che do consiglio di non mettere il numero di cellulare, perché appunto succede questo. Cioè, tu pensa se io fossi stata a casa con mio figlio, mio figlio adesso in questo periodo vive col padre e poi tornerà a stare un po' con me, ma mio figlio per esempio è un figlio unico maschio ed è molto legato alla mamma. Va bene, legato alla mamma nel senso che è molto attento che le persone siano rispettose verso di me, no? Allora tu immaginati se anziché io fossi stata a casa con mio figlio, E rispondeva lui, avessi sentito queste telefonate. Perché poi quando sei in silenzio abbastanza. Beh certo, sarebbe rimasto male. Il cellulare si sente benissimo, eh? Cioè se sei in silenzio in una stanza, quello che la persona ti sta dicendo al telefono, chi è di fianco a te lo sente benissimo. Ok, perché, ecco, tu pensa anche solo a un ragazzino che può sentire appunto queste cose dette a sua madre. Sì, ma ti ripeto, la regola è che non bisogna mettere in luoghi frequentati, allora, diciamo da così, tutti il proprio numero di telefono. Non bisogna mettere il numero di cellulare. Adesso io ti consiglierei di cambiarlo il numero del cellulare e poi ti auguro che questo lavoro che ti offrono sia quello giusto, perché alla fine da pugni in faccia a uno potrebbe anche avere un margine di soddisfazione, ma sai, non è un lavoro vero. Sì, può chiedere un fatto. Sarebbe un po' difficile anche poi le cartelle in faccia a qualcuno. Sì, ma non ti risolvere. Sì, ma non ti risolve il problema, alla fine ti puoi ti puoi slogare il polso, ma alla fine non ti risolve. Un lavoro normale e poi anche questo, quanti pugni pensi in faccia potrà prendere? Gliene dai un paio massimo, poi basta, non è che puoi trasformarsi in una maschera di sangue tutti i giorni. Quindi sarebbe un lavoro. No, ma anche perché io presumo che questo qua poi o al lavoro in casa, dove appunto massacrato, poi il giorno dopo può tranquillamente lavorare in casa, perché finché non si rimarge nel cazzotti, cioè la sera prima, il giorno dopo non è che può andare in ufficio. Certo, chiaro. Anche perché poi tra l'altro le sue richieste. Ma infatti la gente di solito si fa sculacciare e frustare, perché poi si mette addosso il vestito, la giacca, la cravatta, non si vede sotto. Ma i pugni in faccia lasciano il segno. Frustare sei diverso, perché uno si veste, ma uno non si vede, cioè la cartella in faccia, ma come questo proprio 2 o 3 volte a settimana. Sì, secondo me al massimo uno può prendere un pugno a settimana. Massimo, un paio di pugni a settimana e poi avere almeno una settimana, no, almeno una settimana di pausa deve avere fra una seduta e l'altra. Quindi alla fine diamo una quantificazione che te può dare 100 euro a pugno, proprio tanto. Ecco, tu vai lì, ti dai in pugno 100 allora, euro, diciamo, ti ripresenti dopo 2 settimane. Una normale, no. E faccio lo sconto, un pervertito, un massacro di botte. Sì, ma ti dico, non può essere più di una volta ogni 15 giorni, ti è a dir tanto, capito? Quindi per quanto ti possa dare, tu puoi dare 2 pugni ogni 15 giorni. Lasciamo almeno guarire la faccia, no? Quindi non è un lavoro, dai, a parte, ammesso che non abbiamo limiti etici, ridi, ma è così, non era un lavoro, non era un lavoro, era una cosa saltuare, così una tanto, gli davi un pugno e via. Ma questo mi ha chiesto 2 o 3 volte a settimana, 2 o 3 volte a settimana, incontrerò appena. Probabilmente uno che vive di rendita sta a casa con la faccia massacrata, quando esce si fa come l'uomo invisibile. Tanto che gli ho detto, ma qua, quanto mi pagheresti a pugno? Perché ridevo, e che no? Ha detto? E quanto ha detto lui a pugno? Poi lo valuteremo, dipende da quanto lo rovinavo, non lo so. Vabbè. Comunque, dai, mi sembra un incidente di percorso. Ti auguro che i prossimi lavori siano un pochino più seri. Io sono arrivato alla mia stazione. In bocca al lupo e ciao. Conservati le unghie sane, perché dando i pugni magari te le spezzi. Ciao, alla prossima. No, infatti. Ciao.

si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.